Le piace? Le piace? Sì, sono nato qua io. Ok. Ci sono dei rumori, qualche rumore interessante? Che le piacciono? Rumori caratteristici. Rumori caratteristici. Il rumore caratteristico è quello dell'Archipal, della fabbrica che c'è sotto qua, della Sandoz. Quello è il rumore sempre alla sera, si sente sempre quel rumore lì. Ok, le piace, per esempio, sente la campana? La campana si sente ogni tanto, conforme quando va l'aria. Sente questa, la campana dei caduti? La campana dei caduti si sente, okay, ma poco, una volta quando era spostata dall'altra parte si sentiva di più. I suoi vicini fanno rumore? No, sono tutti anziani. Sono abbastanza silenziosi? Sono abbastanza silenziosi? Sì, sono tutti anziani. Quanto è cambiato quando è venuto in Lizzana? È cambiato molto da prima ad adesso a Lizzana? Cosa è cambiato? Ma no, più di tanto non è cambiato. È cambiato un po' la gente, perché prima c'era più gente in giro, adesso ce n'è meno come nelle altre città e negli altri paesi.